Marì. Ma c'è, non c'è. Ai, non mi date Gio Marì. Non mi tasso, illu. E beh, Gio Marì, arrivati, vi prego. Paolo, buonasera. Mami, cercando di tirare avanti alla bella veglia, cosa vuoi fare? E te ne devo fresco, Yves, non so come si fa arrivare con le amici in casa. C'è freschetto, eh? E là ci sta bene oggi, dai. Non è quello è caldo, no? Perché sono croccante come prima, dai. Oggi ci sta bene. E bene farà ancora caldo, eh. Settembre, non ti credi. Noi siamo Lugaggio Santo Michini, capito? Per cui il caldo ne farà ancora, però già farà qualche giornata in fresco, per cui tiriamo avanti alla bella vita, dai. Sì, senza dubbio. Vabbè, quel caldo di San Michele vuol dire che vinta proprio. Certo, magari con questo fresco sia a mare, non è che piaccia tanto, Io chiedo, al mare stava benissimo, stava a caldo, c'erano quasi 30 gradi. Ho fatto anche il bagno, dai, mi sono infuso, Non è come te lo fai quando c'è un po' di caldo, tipo 30, 35, 37, 40 gradi. E niente, da. Ma per me, guarda, ti posso dire che l'estate è già finita, è da andare al mare. Si può andare in giro così, magari qualcosa. Ehi, quando faccio un po' bene, non vi conviene andare, scendere e faccio una passeggiatina e poi se si può, se è giornata bella, anche un bagno si potrebbe anche fare. Però non è che devi stare a casa, non si va a casa. Ui, per carità, questo posso fare io, devo stare a casa perché no. A mare non mi piace andarci, così che non mi ricordo quando sono, senza andare a toccare l'acqua del mare. E non ci andrei, non mi va e non ci va. E non ci va, però. A chi piace fa bene che va e si diverta. Vabbè, io già non posso dire che non sono andato al mare, ma prima ci andavo poco, prima tanti anni fa, pochi niente, tipo la sola domenica, poi c'è. Andavo di pomeriggio, poi quando alle marine andavo in fine andavo mattina e sera, quando l'upero andavo anche io. Ma poi studiato, guardato pure un troppo, guarda. E avete fatto bene, lui. Avete fatto bene, bisogna uscire. Hanno bussato lui. Sì, allora faccio male, io faccio merenda adesso, ciao.